8. Tortellini all'italiana, agnellotti. Braciuole di maiale nella lombata, circa grammi 300. Un cervello di agnello o mezzo di bestia più grossa. Midollo di bue, grammi 50. Parmigiano grattato, grammi 50. Rossi d'uovo numero 3. E al bisogno aggiungete una chiara. Odore di noce moscata. Disossate e digrassate le braciuole di maiale e poi tiratele a cottura in una cazzaruola con burro, sale e una presina di pepe. In mancanza del maiale può servire il magro del petto di tacchino nella proporzione di grammi 200, cotto nella stessa maniera. Pestate o tritate finissima la carne con la lunetta. Poi unite alla medesima il cervello lessato e spellato, il midollo crudo e tutti gli altri ingredienti, mescolandoli bene insieme. Quindi i tortellini si chiudono in una sfoglia come i cappelletti e si ripiegano nella stessa guisa, se non che questi si fanno assai più piccoli, il loro diametro possibilmente 3,5 cm.